la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 5 secondi in diretta qui da una solata primaverilissima a Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, la versione di Oscar, Oscar Giannino, come sempre sia che l'ascoltiate in diretta che in podcast. E vi ricorda l'indirizzo a cui per ogni altra questione potete anche candidarvi alle trasmissioni di cui oggi, nella serie che abbiamo iniziato due settimane fa su Italia non per giovani, faremo infatti un altro aggiornamento con due altri ascoltatori che si sono candidati a intervenire su questo tema, esperienze di vita che spingono italiani, giovani e meno giovani, fuori dal nostro paese per lavoro e formazione, o che spingono chi sta qui a interrogarsi restando però pur tuttavia su un paese che da anni, decenni, da vent'anni oramai ha deciso di non avere più come centro di attenzione alla sua agenda pubblica il trattamento che noi riserviamo alle giovani generazioni in termini di reddito, in termini di patrimonio, in termini di ascensori sociali bloccati nella formazione del capitale umano, in termini di condizioni per l'accesso al mercato del lavoro. Tutte e quattro i pilastri dovrebbero essere i fondamenti di una priorità politica per un paese che oltretutto ha bassa produttività, non solo per la bassa produttività multifattoriale, cioè del capitale fisico delle imprese, del capitale finanziario e degli intangible, cioè brevetti, marchi registrati, proprietà intellettuale nelle imprese, ma che ha bassa produttività anche perché un'altra componente fondamentale della produttività è quella della demografia, cioè dello stock della popolazione in età di lavoro e delle ore effettive lavorate. Ecco, noi stiamo lavorando perché questo secondo pilastro, cioè quello della demografia, della produttività nazionale, vada in sempre maggior squilibrio. Direte voi, prediche inutili? Sì, d'accordo, però sono i fondamenti, no? Quando uno studia che cosa costituisce la produttività di un paese, e a maggior ragione dovrebbe essere una priorità per la politica in un paese che ce l'ha bassissima da vent'anni, però può essere che noi ci sbagliamo, ma non sbagliate voi a proporre storie come quelle che oggi vi proponiamo, quindi vi invito a continuare a scrivere e a candidarvi perché andiamo avanti a sentire le vostre voci, anche oggi. Due testimoni e cominciamo con Davide Polizzi, che io ringrazio per averci scritto ed essersi candidato a dare il suo contributo. Buon pomeriggio Davide. Buon pomeriggio Oscar. Allora, da dove ci stai parlando in questo momento? È da Doha, in Qatar. In Qatar. Quanti anni hai? Nel Golfo. Io ho 36 anni. 36 anni. 37 quest'anno. Dove ti sei formato? Io ho studiato in Italia, ho fatto l'università in Bicocca e un anno di Erasmus in Germania, a Tübingen. Quanti anni avevi quando sei andato in Germania? 23 anni più o meno. Come ti sei trovato? Molto bene, è stata un'ottima esperienza. Vedere un sistema universitario piuttosto diverso rispetto a quello a cui ero abituato in Italia. In pillole perché? Non è male quello in Italia. Non è male quello in Italia, credo ci sia di peggio. Comunque a Bicocca mi sono trovato bene. Però le classi erano molto più piccole in Germania e c'era molta più interazione fra i professori e gli studenti. Perlomeno per i corsi che ho preso io. Che cosa studiavi in Bicocca? Economia. Ho fatto una laurea triennale in economia dello sviluppo. Ok, e dopo l'anno di Erasmus quindi sei tornato? Sono tornato, mi sono completato la laurea a breve. Sì. E dopo la laurea ho fatto un anno a Torino, all'ILO. Che è dove c'è un master per la cooperazione e lo sviluppo in coordinazione con l'Università di Torino e l'ILO. Perché ti interessava in particolare questo canale, cioè le ONG. Esatto, infatti tramite loro poi ho avuto la mia prima opportunità di lavorare all'estero, appunto visto che volevo fare cooperazione internazionale, l'unico sbocco valido era andare all'estero. E ho iniziato un tirocinio con loro, con ISCOS, che è una ONG italiana che lavora in Pakistan. Ho lavorato qualche mese con loro in Pakistan come stagista e poi è andata bene, quindi mi hanno proposto di restare e alla fine sono partito per stare via 2 mesi e sono rimasto quasi 4 anni in Pakistan. Quasi 4 anni in Pakistan. La domanda è: tu hai preso l'indirizzo dell'Ilo a Torino quando a un certo punto ti sei reso conto verso la fine del percorso universitario in bicocca che di sbocchi era meglio scegliersene uno che impegnandosi poteva essere immediato, o ci pensavi da prima? No, ho sempre voluto più o meno fare fin dall'inizio questo tipo di percorso. Non ero molto interessato. Come? Il cooperatore allo sviluppo. Sì, qualcosa di con uno sfondo sociale, qualcosa che non era necessariamente legato alla carriera direttamente, all'economia, così. Esperienza in Pakistan? Ottima come esperienza di vita e come esperienza di formazione e di lavoro. È un paese non facile in cui vivere, però le persone con cui ho lavorato mi sono trovato molto bene, mi sono sempre sentito accolto. Tracce di fondamentalismo? Sì, chiaro, sì, certo. Noi lavoravamo anche nelle zone al confine fra l'Afghanistan e il Pakistan per un lungo periodo, zone in cui l'esercito pakistano non entra, per intenderci. Esatto. E poi dopo c'è stato un terremoto nel 2005, un forte terremoto con decine di migliaia di morti, e quindi abbiamo iniziato dei progetti di sviluppo lì, in scuole, per la costruzione di scuole. Dopodiché con la stessa organizzazione sei andato in un altro continente. In Mozambico, sì, mi hanno offerto di andare in Mozambico, dove l'esperienza è stata radicalmente diversa e il lavoro era molto più difficile per certi versi, mentre la vita era più facile. Perché il lavoro era più difficile? Perché in Mozambico riceve non ho i dati alla mano, ma una quantità di cooperazione, di fondi per la cooperazione molto alta. Sì. Diciamo che ci sono i professionisti della cooperazione, sono abituati alla cooperazione da decine di anni. Posso farti una domanda secca? Io aderisco a una tesi un po'... insomma, non voglio dire radicale, però io ho forti dubbi su il meccanismo fondamentale che viene utilizzato, però non generalizzo, sulla cooperazione internazionale, perché mi è capitato nella vita di verificare che in molte strutture per la cooperazione il più delle risorse se ne vanno in spese di gestione e tantissime altre di quelle che restano se ne vanno in tangenti. Prima poi di imbattermi in una giovane economista keniana che si chiama Dambisa Moyo, che si è specializzata poi negli Stati Uniti e che si è specializzata tra le altre cose anche nella critica strutturale del modello della cooperazione e dello sviluppo nei paesi meno avanzati. Rispetto a questo tipo di critica, che può apparire radicale, che non è un'obiezione agli aiuti allo sviluppo, ma è la constatazione di quanta parte di queste risorse se ne va in ragioni diverse, la parte preminente, e quanta poi viene intascata in alcune parti del mondo da regimi corrotti, tu che risposta dai? Io sono parzialmente d'accordo, ci sono... il sistema della cooperazione secondo me dovrebbe essere riformato, ci sono organismi molto grandi che utilizzano per spese di gestione la maggior parte delle risorse destinate, e questi sono dati che si possono trovare. Sono dati ufficiali, no. Incontrovertibili. Comunque adesso non è una trasmissione su questo ma però, mi interessa. No, ma non si tratta, però ripeto. C'è chi lavora bene, ecco. Però c'è chi lavora bene con dubbio. Poche risorse, non c'è dubbio. ISCO è una di queste. Non c'è dubbio, qui si tratta di ottimizzare senza fasciarsi gli occhi però rispetto a chi spende soldi, peraltro rispetto a quanto dichiara. Ecco, tutto qui. Dopodiché, certo. Dopo il Mozambico ti trasferisci in Dubai. Dopo il Mozambico mi sono trasferito per motivi personali, possiamo dire, a Dubai, visto che mia moglie, che avevo conosciuto in Pakistan, che è russa e ha lavorato per un po' in Italia, e poi dopo è stata trasferita a Dubai, ci siamo resi conto che non era possibile continuare una storia stando in fuso orari diversi e in continenti diversi, e quindi con l'idea di cercare una posizione un po' più fissa, un mestiere un po' più però hai dovuto cambiare radicalmente indirizzo, perché a quel punto da Leonlo sei passato a lavorare nel petrolio. Esatto, ho deciso di fare un master MBA, un master in business administration con un'università scozzese che ha un campus a Dubai, e da lì ho trovato un'opportunità con un entry level position con un'organizzazione petrolifera che si chiama Baker Hughes. Però quando si dice entry level lì si parla di pochi mesi, non si parla di anni di precariato. Io ho avuto un primo contratto di 2 mesi come agenzia interinale, mi hanno preso, e dopo 2 mesi mi hanno offerto un posto a tempo indeterminato. Ti hanno offerto un posto a tempo indeterminato, vabbè. Io sono entrato ad agosto, al novembre mi hanno offerto un posto a tempo indeterminato e mi hanno chiesto di andare in Germania perché per formarti c'erano. Per formarmi fondamentalmente, sì. Quindi sei stato qualche mese a quel punto anche in Germania. Io so che chi ci ascolta ha perso il conto dei paesi in cui sei stato. Dopodiché torni e torno a Dubai. Torni a Dubai. Dove sono stato per 3-4 anni, 5 anni. Però poi hai anche cambiato società. Sì, perché poi sono cresciuto nella società, perché ho cambiato diversi ruoli all'interno delle risorse umane. Mi hanno aiutato a fare un PMP, si chiama un Project Management, dal Project Management Institute, quindi ho preso la strada del Project Management, però poi ho avuto un'opportunità diversa in Qatar, quindi sono venuto in Qatar. La situazione petrolifera al momento è abbastanza difficile, stanno facendo molti licenziamenti, quindi non è stato il mio caso. Non è cambiato rispetto alla ripresa dell'andamento del prezzo del petrolio rispetto ai minimi, non è ancora cambiato. Sì, sta cambiando, non siamo più in caduta libera come un anno e mezzo fa, però allora, questa opportunità, tutta questa migliore serie di cose, di tappe che ti ho fatto ricordare, l'Erasmus in Germania mentre ti lavoravi in Bicocca, poi le ONG, anni in Pakistan, poi in Mozambico, poi Dubai, dopo aver preso anche l'MBA da un campus di Università Scozzese a Dubai, poi cambi radicalmente tipo di impresa, ramo petrolifero, ti formano in Germania, torni lì, poi cambi anche l'impresa e così via, per arrivare a un punto, perché tu mi hai scritto anche la famiglia da cui provieni, perché uno ascoltando dice vabbè, ma questo caro Oscar, ma che ci fai sentire? Questi sono i privilegiati che hanno dietro famiglie di professionisti, di grandi manager, gente che gira il mondo fin da piccola perché se lo può permettere. La tua famiglia com'è? Ecco, io non mi è mai mancato nulla, assolutamente. Però mia mamma ha lavorato come segretaria in una grande banca italiana, e mio papà ha fatto fino a pochi anni fa l'operaio. Operaio, non c'è niente di male da dire, sì. Però ecco, una famiglia media, ma non certo una famiglia, cari ascoltatori, di chissà quale tenore di vita, di chissà quale patrimoni, per no, cui capisci, si non nasce... c'è mai mancato niente, no, per carità, per carità di Dio, certo. Poi soprattutto rispetto a, gli abbiamo parlato qualche puntata fa, ai 9 milioni di italiani, quando abbiamo parlato della terza Italia, che c'era scritto il professor Luca Ricolfi, che sono gli esclusi, per carità, non ti è mai mancato niente. Però contemporaneamente la tua era una condizione media non particolarmente privilegiata, che ti ha però consentito, con le idee chiare da quando eri giovane, di inanellare un percorso, ma nel quale a un certo punto tu e tua moglie state sempre insieme, sì? Sì, sì. Ecco, tu e con tua due moglie, bambini adesso. Con due bambini. Avete una qualche idea del futuro, di continuare a pencolare nel mondo alla ricerca di migliori opportunità, oppure dove li volete far crescere? Lì? Io tornerei in Italia domani se avessi la possibilità di avere le prospettive di crescita che ho qui, perché la mia famiglia di origine è in Italia, perché mi piacerebbe per i miei Ma ritieni che ci siano queste possibilità? No. Lo dici sorridendo? No. Sì. E tua moglie cosa lo pensa? Lo dico sorridendo, la pensa anche lei in maniera simile. Lei è russa, quindi non conosce l'Italia come la conosco io, ovviamente. Però ma lei vorrebbe tornare in Russia? No. Allora, io vi ho fatto sentire questa testimonianza col tono distaccato di un cittadino del mondo, come evidente. Ti posso chiedere solo un'ultima cosa? Cosa pensi di chi in Italia vuole tornare a erigere dazi, spaccare l'Europa, del nazionalismo, dello sciamanismo? Che pensi? Li capisci da fuori come segni di disperazione oppure ti sembra completamente sbagliato e incomprensibile? Faccio abbastanza fatica a seguire sempre di più man mano che il tempo passa le vicende italiane da questo punto di vista. No, io ho fatto l'Erasmo, per me era normale l'Europa. L'Europa era una dimensione acquisita. Pensavo che si andasse verso. Ecco, appunto. Esatto, appunto. Sì. Allora, io ringrazio Davide Polizzi perché, come vedete, diventare cittadino del mondo lo si fa non per scelta anti-italiana, ma amando l'Italia. Il problema è c'è chi dice: sì, ho capito, però io intanto questa cosa l'ho accumulata e continuerò ad accumularla. Lì, ecco, questo è l'interrogativo su cui ruotano tutte queste testimonianze. Grazie a Davide, auguri per i suoi figli, per sua moglie, per il suo futuro, che sarà ricco ancora di chissà quante altre occasioni, perché se la merita e perché ha messo a rischio fin dal primo momento, quando è andato in Pakistan, lo stare fermi qui. Il che non significa che è l'unica alternativa, questa non è una trasmissione di propaganda, ripeto, andarsene è l'unica. Bisogna crederci, scommetterci, non disperare, bisogna farlo a maggior ragione per chi resta qua, però come vedete si può fare. Torniamo tra un minuto dopo il traffico. La versione di Oscar. Naturalmente è da mettere in conto anche questa puntata, qualche ascoltatore la cui opinione naturalmente rispetto ma non condivido, dice che è colpa degli europeisti come me se gli italiani se ne vanno, perché prima invece non avveniva, ai tempi della lira non avveniva. Beh, non lo so, invito a ripassarvi un po' di storia italiana, poi potete credere a quello che volete. Se avete dimenticato, come continuerò a ripetervi, che dallo shock dell'offerta petrolifera del 74 in poi, ogni anno abbiamo dovuto chiedere prestiti internazionali elemosinando col cappello in mano, perché altrimenti non riuscivamo a stare nel sistema dei pagamenti internazionali. Ma questo ovviamente chi vi riempie la testa di panzane non ve lo racconta e dice che è un trucco e una menzogna dei servi della Goldman Sachs o di chissà chi. Mi viene da ridere. Io sono vecchio abbastanza per ricordarmeli quegli anni. Ma per carità, fate come volete. Torniamo ai dazi, all'autarchia e poi però non lamentatevi. E perché a quel punto sarà più complicato che vi spieghino che è tutto il frutto di qualcosa e di qualche errore compiuto dagli altri e non da noi. Il che non significa dire che l'euro funziona, il che non significa dire che l'Europa è perfetta. È piena di errori, è tutto pieno di errori. Certo, il ritorno all'autarchia mi fa preoccupare. Detto questo, ecco la seconda testimonianza, e questa è ancora secondo me più significativa, perché qui non stiamo parlando di un giovane che ci spiega le scelte che ha fatto e il perché. Qui andiamo al cuore di un altro problema. Le generazioni più avanti con gli anni si rendono conto del fatto che la politica le ha preferite, si rendono conto che per riequilibrare si può, forse si deve, essere chiamati anche a un riequilibrio di risorse tra generazioni e generazioni, cioè capiscono che il problema dell'ingiustizia intergenerazionale è fondamentale. Cosa sono disposti a fare? A dire la verità, pochissimi di voi ci hanno risposto su questo, ma ne ho scelto uno perché la sua lettera espone proprio una sua convinzione a questo proposito. Si chiama Riccardo Sciuto. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, di averci scritto e essersi reso disponibile. Buon pomeriggio Oscar, grazie a te per la telefonata. E di che? Allora, dalla parlata direi che sei siciliano. Assolutamente sì, di Catania. Di Catania. E hai una figlia che sta all'estero. Sì, vive in Germania da 7 anni, lavora là e fra poco sposerà anche là, anche se sposa un venezuelano, quindi avremo una coppia italo venezuelana in Germania. Ma tua figlia vorrebbe tornare? Ma sai, il desiderio tutto sommato di tornare, cioè, diciamo, vive nel cuore di ognuno, però evidentemente se uno deve tornare quantomeno per stare come sta in Germania. Allora, tua figlia ci hai descritto il suo colmo di formazione, laureata con centro di Cellodi, siena triennale, che è una specialistica, parla bene 4 lingue, inglese, francese, tedesco, spagnolo, oltre all'italiano, e aggiungi tu, divertito, hai il dialetto catanese. Dici però, l'esempio che ci fai è come è stata assunta in BASF, grandissima impresa tedesca, rispetto a Catania, dove non si viene assunti senza raccomandazione, è così? Sì, diciamo in Italia, ecco. Sì, no, no, per carità, hai ragione. No, no, hai ragionissimo. No, praticamente lei ha appena preso la laurea specialistica in finanza aziendale, ha mandato dei curriculum in Italia, diciamo un silenzio assordante, e le hanno risposto dalla Svizzera, dalla Germania. E in particolare con la BASF ha fatto due colloqui telefonici, poi loro l'hanno invitata in Germania per un periodo, poi ha fatto sei mesi di prova e diciamo è entrata in BASF. Poi pochi mesi dopo c'era la Deutsche Bank che faceva una selezione, siccome a lei interessava ancora di più diciamo andare in banca, e partecipò a questa selezione e poi diciamo ha cambiato dalla BASF e è andata alla Deutsche Bank. Allora, curriculum, risposte che da fuori vengono, in Italia no, colloqui telefonici, proposte, insomma, è abbastanza chiara la differenza tra chi neanche risponde in Italia, per così dire. Però il punto di fondo è che tu a un certo punto dici, di fronte a chi mi dice, beati voi, tu e tua moglie, vostra figlia si è sistemata, non avete più problemi, dice, io rifletto. E se fosse possibile sarei disponibile anche a fare una cosa, ce la spieghi? Sì, quello che ti ho scritto è semplicemente questo, perché ripeto, tutti ci dicono, voi siete fortunati, vostra figlia si è sistemata bene, insomma, una sua prospettiva di vita di un certo tipo. Ma io mi sono fatto una domanda. Allora, pur con gli allungamenti del periodo per andare in pensione. Della Fornero. Comunque quando andremo in pensione, sia che mia moglie, ci toccherà una pensione, diciamo, in larga misura retributiva. Quindi con parametri di trasformazione dei versamenti dei contributi effettuati, del montante dei contributi rispetto alla rendita, cioè la signora di cui avete bisogno, che naturalmente la generazione post Fornero si sognerà. Quindi va bene, sicuramente la differenza è abissale. Non vivrete nell'oro, però insomma sarete due pensionati. Che ma sai, poi teniamo anche presente che man mano che si va avanti con l'età, tutto sommato i bisogni dovrebbero diminuire. Sì, sì, è così. Specialmente se c'è un'assistenza sanitaria e poi insomma, le altre cose. Insomma. Però vedi, la domanda, io quello che ti ho scritto e che ti ribadisco è che noi tutto sommato abbiamo dichiarato guerra ai nostri figli. Ecco. Cioè noi non la nostra politica e tutto sommato il comune sentire non è rivolto alle generazioni giovani, è rivolto a dare sempre nuove prebende, nuovi vantaggi diciamo a persone come me che, insomma, o come altri che già sono abbastanza. Pensiamo per esempio anche alla legge di bilancio 2017 che stanzia miliardi per aiutare a prepensionare chi un lavoro ce l'ha, i poveri assoluti e i giovani niente, punto. Assolutamente niente. Allora io ti ho detto, e qui lo ripeto, io sarei pronto a rinunziare a una parte di questa pensione retributiva, cioè secondo me sarebbe giusta una tassazione che colpisce le pensioni retributive calcolate in un certo modo, ma evidentemente allo scopo di dare più risorse per i giovani, perché se poi la cosa si deve tradurre come si traducono il 99% delle cose in Italia, cioè che vengono poi mangiate adesso in spesa corrente che decidono i partiti invece che darlo a chi sta peggio. Allora però Riccardo, a me ha colpito questa lettera perché, ripeto, io ne ero convinto da anni, ma sono stato travolto dagli insulti dicendo vuoi fare la guerra tra poveri. No, io dico solo che è la Banca d'Italia a dirci che in 15 anni, fatto pari a 100, lo stock patrimoniale di ricchezza di famiglie guidate da chi ha meno di 35 anni e chi ha più di 65, si vede l'effetto di quello che ci sta ricordando Riccardo, che il patrimonio per gli over 65 anni capifamiglia passa da 100 a 160, per quello delle famiglie con più giovani di 35 anni o 35 anni passa da 100 a 40, cioè che è una rapina tra generazioni. Allora, mi ha molto colpito la tua disponibilità, però io devo dirti, Riccardo, che la stragrande maggioranza di chi è nelle tue condizioni è assolutamente contraria a questo che dici questo, tu. Perché? L'ho scritto anche io. Perché? Ma per un motivo semplicissimo, vedi, allora io ho molti amici che già sono in pensione, che godono anche di assegni pensionistici importanti. Sì. Benissimo, i figli, ti posso assicurare che poi il discorso fortunato tu nasce anche dal fatto che i figli sono invece drammaticamente a spasso, comunque con delle sistemazioni enormemente inferiori a quelle che avevano i genitori. E quindi, ma gli stessi loro genitori toccano con mano sui loro figli. Esatto. Però se tu avanzi un discorso, una proposta del genere, viene guardato come un extraterrestre, una persona insomma che viene da Marte. Ho capito, però allora se la politica non decide di suo e neanche noi dal basso sui nostri figli lo decidiamo, ragazzi, dovrebbero fare la rivolta i nostri figli. Dovrebbero fare, guarda, se lo dico io passo per... Però io penso che quello che stai dicendo, cioè non c'è rappresentanza ma non c'è anche l'impulso a farsi rappresentare per le corti più giovanili, è il punto. I partiti guardano l'età media degli elettori, che oramai è 46 anni, si sposta sempre più verso i 50, e i giovani sono quelli che partecipano meno al voto. Riccardo Ciuto, che io ringrazio, lui e sua moglie, non solo per la proposta, ma per questa conclusione. Chi ci ascolta dovrebbe rifletterci molto. Riccardo, io onoro il solo fatto che tu la pensi così. Siamo in pochi, ma continuiamo a tentare di fare ragionare chi, la maggioranza, la pensa diversamente. Continuate su Radio 24, appuntamento con Alessandro Milano domani alle 8:20, attenti alle 2.